Grazie a te, grazie a tutti, vogliamo accomodarci. Quanti hanno gioia nel cuore perché sono qui? E io sono contento che voi siete qui, perché potremmo stare in mille posti diversi, forse a preparare il pranzo e la cena di oggi, ma è bello ritrovarci insieme e celebrare il nome al di sopra di ogni altro nome, che è Cristo Gesù. Questa è la vera festa. E per noi non è valida solo il 24 e il 25 di dicembre, è vera ogni giorno, perché Gesù ha cambiato le nostre vite per sempre. Ogni giorno è festa per noi. Amen. Però io credo che sia bello, molto molto bello, un'occasione speciale quella di riscattare questi giorni di festa e dire al mondo intero, annunciare anche a noi stessi il valore della nascita di Cristo Gesù. Perché Gesù di fatto è nato, e celebrare la sua nascita è qualcosa di importante. Ricordare che lui è venuto su questa terra è qualcosa di indispensabile che la sua Chiesa faccia, non solo una volta all'anno, ma regolarmente. Cristo è venuto in un giorno specifico, in un posto specifico, e quello che lui ha fatto in virtù della sua venuta è straordinario. Letteralmente ha spaccato a metà la storia dell'umanità. C'è un prima di Cristo e un dopo Cristo. La storia è stata spaccata per la venuta di Cristo Gesù, perché Dio si è fatto uomo, è venuto sulla terra ed è venuto per una ragione specifica. Io vorrei leggere con voi stamattina alcuni versi dalla Bibbia, e io credo che tutti noi sappiamo che la Bibbia parla di Gesù Cristo. Forse non tutti sanno che il Vecchio Testamento, ovvero tutta quella porzione di Bibbia, la più grande porzione di Bibbia, che è stata scritta prima della venuta di Cristo Gesù, ha anticipato la venuta di Gesù, la nascita di Gesù, e ci parla di come Gesù sarebbe venuto, come sarebbe nato, dove sarebbe nato e cosa avrebbe fatto. Questa è una cosa straordinaria. Nel Vecchio Testamento, 39 libri, una raccolta di libri scritta in un periodo di 1000 anni, il più recente dei libri, scritto 400 anni prima che Gesù nascesse, questa raccolta di libri ci parlano in 350 e più profezie diverse della venuta di Cristo Gesù. Capite quanto è importante per Dio Cristo Gesù e la sua venuta? E l'ha anticipato. Io con voi vorrei leggere una profezia speciale. La troviamo in Isaia, al capitolo 9. E la vogliamo leggere insieme in una maniera diversa, guardando questo video, ma ponete attenzione ad ognuna delle parole che è scritta in Isaia, capitolo 9. Il popolo che camminava nelle tenebre ha visto una grande luce. Ora essa ha illuminato il popolo che viveva nell'oscurità. Signore, Tu hai dato loro una grande gioia, li hai fatti felici. Gioiscono davanti a te come quando si miete il grano o si divide il bottino di guerra. Tu hai spezzato il giogo che gravava sulle loro spalle e li opprimeva. Hai distrutto i loro nemici come in passato. È nato un bambino per noi, ci è stato dato un figlio. Gli è stato messo sulle spalle il segno del potere regale. Sarà chiamato Consigliere sapiente, Dio forte, Padre per sempre, Principe della pace. Diventerà sempre più potente e assicurerà una pace continua. Governerà come successore di Davide. Il suo potere si fonderà sul diritto e sulla giustizia per sempre. Così ha deciso il Signore dell'universo nel suo ardente amore. E così sarà. Meraviglioso, vero? E lo troviamo nel Vecchio Testamento, ed è una profezia che ci anticipa la venuta di Gesù, ma anche la ragione per la quale Gesù è venuto. E c'è scritto che sarà chiamato Consigliere sapiente. Gesù sarà chiamato Consigliere sapiente, Dio forte, perché in Cristo Gesù Dio si è fatto uomo e ha camminato in mezzo a noi. Sarà chiamato anche Padre per sempre e, ascoltatemi bene, sarà chiamato Principe della Pace. Gesù Cristo è chiamato ed è il Principe della Pace. C'è un'altra porzione di Bibbia che vi voglio leggere e si trova in Luca al capitolo 2 e narra, il Vangelo di Luca in questa porzione narra proprio l'apparizione angelica che annuncia la nascita di Cristo Gesù ai pastori. Forse è una cosa che ricordate tutti, però voglio leggervela questa mattina dal versetto 8. Luca 2 versetto 8 c'è scritto questo: in quella stessa regione Gesù era appena nato, in quella stessa regione c'erano dei pastori che stavano nei campi e di notte facevano la guardia al loro gregge. E un angelo del Signore si presentò a loro e la gloria del Signore risplendé intorno a loro. E furono presi da gran timore. Sfido chiunque. Immaginate questi poveri pastori di notte che accudiscono un gregge e vedono apparire un angelo e la gloria di Dio che li immerge, li avvolge totalmente. Quest'angelo a questo punto dice: non temete, perché io vi porto la buona notizia di una grande gioia che tutto il popolo avrà. Oggi nella città di Davide è nato per voi un Salvatore, che è il Cristo, il Signore. E questo vi servirà di segno: troverete un bambino avvolto in fasce e coricato in una mangiatoia. Non si ferma qui. Dopo l'apparizione di questo angelo avviene qualcosa di ancora più incredibile, ancora più miracoloso, ancora più sconvolgente per quei pastori. Versetto 13 c'è scritto: e a un tratto vi fu con l'angelo una moltitudine dell'esercito celeste che lodava Dio e diceva: gloria a Dio nei luoghi altissimi e pace in terra agli uomini che egli gradisce. Dopo l'apparizione di questo angelo, i pastori si ritrovano davanti alla visione di miriadi di angeli, dell'esercito del cielo che loda, adora Dio. Immaginate in che stato di shock questi pastori si sono ritrovati. E loro, questa apparizione, questi angeli non fanno altro che cantare e lodare a Dio, perché in cielo c'è continua e perenne adorazione per Dio. Ma in questa adorazione ci sono delle parole specifiche che gli angeli usano. E su queste parole vorrei che noi prestassimo attenzione stamattina, perché gli angeli cantavano gloria a Dio nei luoghi altissimi e pace in terra agli uomini che egli gradisce. Ed è qui che ci viene rivelato di nuovo la ragione per la quale Gesù è venuto. Gesù è venuto quale principe di pace per portare pace in questa terra. Lui è venuto per portare pace a ciascuno di noi. Non una pace politica, evidentemente. Non per fermare i conflitti, non per fermare le lotte, i litigi, né quelli delle nazioni, né quelli che noi viviamo, ma per darci una pace ben più significativa. Un giorno Cristo tornerà, e quando Lui tornerà, verrà per giudicare le nazioni, i popoli, e ripristinerà la pace assoluta, eterna, che Lui ci ha promesso anche tra i popoli. Ma quel tempo non è ancora giunto, e noi oggi viviamo non in un tempo di giustizia e di giudizio, ma viviamo in un tempo di grazia, nel quale Dio dà accessibilità a questa pace per ogni uomo. E questa pace è la pace più importante che ciascuno di noi può conquistare, e da questo tipo di pace deriva ogni altro tipo di pace per la tua vita, ed è la pace con Dio. Gesù è venuto per darci pace con Dio. Io, tu, siamo in una condizione di conflitto, di inimicizia, di discordia, di separazione da Dio a causa dei nostri peccati. I nostri peccati, la nostra ribellione, il nostro camminare in autonomia, separati da Dio e ignorando quello che Lui ci dice e distanziandoci dal nostro Creatore, è quella condizione di inimicizia per la quale Gesù è venuto, ha vissuto su questa terra, è morto ed è poi risorto. E in virtù di quella morte, di quella resurrezione, Lui ha preso su di sé tutte le nostre colpe, tutti i nostri peccati, tutta la causa della nostra inimicizia per riconciliarci al Padre. E infatti solo Lui che ci dà l'accesso al Padre. Gesù dice: io sono la via, io sono la verità, io sono la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. E Romani capitolo 5, al versetto 1, dice questo: che giustificati dunque per fede abbiamo pace con Dio per mezzo di Cristo Gesù nostro Signore. Per mezzo di Cristo Gesù nostro Signore noi siamo giustificati e abbiamo e otteniamo pace con Dio. Io non so come sei venuto questa mattina, non so quali sono i conflitti interiori e la mancanza di pace che vivi, però questo invito è per te, ad appropriarti del dono più prezioso che ci è stato fatto dal cielo, che è Cristo Gesù. Lui è venuto per pagare il prezzo di riscatto e per darti giustificazione. Sai cosa significa essere giustificato? Che Dio non ti vede più per le tue colpe, per le tue mancanze, per la tua ribellione, per quella dichiarazione di separazione che tu fai ogni qualvolta vivi in autonomia rispetto a Dio. Ora Dio ti vede giustificato, senza macchia, puro, giusto, pienamente nella sua volontà. Non perché tutto a un tratto sei diventato migliore, non perché tutto a un tratto tu ti sei guadagnato questa condizione, ma perché Gesù è venuto e ha pagato quel prezzo e in virtù del suo sangue versato su quella croce, ora Dio ha la possibilità di vederti giustificato, puro, senza macchia, e non c'è più inimicizia tra te e Dio se ricevi Cristo Gesù in fede nella tua vita, se permetti a Lui di essere il Salvatore della tua vita. Gesù è venuto per darci questo tipo di pace. E gli angeli annunciano che questa pace, sebbene è disponibile a tutti gli uomini, arriva alla vita di coloro che Dio gradisce. Gli angeli dicono: pace in terra agli uomini che Egli gradisce. E c'è un solo modo attraverso il quale tu puoi essere gradito davanti a Dio, ed è riponendo la tua fede completa in Cristo Gesù. E per la fede che tu riponi in Cristo Gesù, tu diventi gradito a Dio e la sua pace prende piede nella tua vita e tu ora sei in intima relazione con il Padre, non c'è più niente che ti separa da Lui. Capite che dono prezioso ci è stato dato da Cristo Gesù? Capite perché è così importante quello che Gesù ha fatto per noi? Tu puoi stare in una condizione di pace, e questa pace che ho appena descritto è la pace più importante, dalla quale scaturiscono ogni altro tipo di pace. Gesù è venuto per dare questa pace. Quando Gesù parla di pace, usa una terminologia che è un po' diversa da quella che utilizziamo noi. Quando Lui dice pace, Lui dice shalom, e questo termine parla di una completezza, di un benessere, di una soddisfazione completa, e molto di più di solo pace. Gesù è venuto per darci completezza. Una pace anche nelle circostanze, anche nei conflitti e nelle situazioni difficili. Infatti in Filippesi al capitolo 4 dal versetto 6 dice, la parola di Dio dice: E questo è un verso che ho fatto mio e me lo sono imparato a memoria perché ho bisogno di ricordarmelo. Dice: non angustiatevi di nulla. Di nulla. Non siate preoccupati di nulla. Non fate in modo che nessuno stress, nessuna ansia, nessuna preoccupazione, nessuna amarezza abbia la meglio su di voi. Ma fate piuttosto un'altra cosa. In ogni cosa fate conoscere le vostre richieste a Dio in preghiere, in suppliche che non sono altro che le ripetizioni di determinate richieste fatte a Dio, accompagnate dal ringraziamento. State leggendo con me qual è la promessa che ne consegue? E la pace di Dio, questa è la conseguenza, la pace di Dio che supera ogni intelligenza custodirà i vostri cuori e le vostre menti in Cristo Gesù. Capite? Gesù è venuto per darci pace e noi otteniamo pace nel momento in cui ci affidiamo a Lui, pace con Dio. Ma poi possiamo ottenere anche una pace nelle circostanze se camminiamo con Lui. Se la nostra vita, il nostro affanno quotidiano è sottoposto a Lui attraverso le richieste, attraverso la preghiera. Noi non siamo stati creati per camminare da soli, fratelli e sorelle. Noi siamo stati creati per camminare insieme al nostro Creatore. Questa è l'immagine che ci viene presentata in Genesi. E in Matteo 11 Gesù dice: venite a me voi tutti che siete affaticati e oppressi e io vi darò riposo. Prendete su di voi il mio giogo e imparate da me, perché io sono mansueto e umile di cuore e voi troverete pace, riposo alle anime vostre. Poiché il mio giogo è dolce e il mio carico è leggero. Sapete cos'è il giogo? Il giogo è quell'attrezzo che permette a due animali da soma di portare insieme il carico dell'aratro, il peso, la fatica dell'aratro. E Gesù sta dicendo: mettiamoci sotto lo stesso giogo. Non camminare più da solo, non portare avanti l'aratro, le difficoltà, le preoccupazioni di questa vita da solo. Unisciti a me. E fai in modo che questo giogo ci unisca affinché il carico lo possiamo portare insieme. E insieme con me affronterai ogni tipo di sfida che questa vita ha da offrirti con leggerezza. Il giogo di Cristo è leggero per te. È Lui che ti dà pace nelle circostanze. È Lui che ti dà pace nelle situazioni. Riponi la tua fede in Cristo Gesù per ottenere pace in Dio. Cammina con Cristo Gesù per avere pace nelle circostanze e osserva quelli che sono i comandamenti di Cristo Gesù per avere pace con gli altri. Con quest'ultima pace voglio concludere stamattina, perché questa è anche una pace necessaria. Forse molti di noi hanno già pace con Dio perché si sono riconciliati attraverso Cristo Gesù. E hanno pace anche nel mezzo delle circostanze più difficili, nella malattia, nel dolore, nelle situazioni gravose, perché camminano con Cristo. Però a volte anche come credenti ci attiriamo tanta guerra e tanto conflitto e tante situazioni difficili perché non riusciamo ad avere pace con gli altri. E Cristo Gesù ci dà la chiave e gli insegnamenti per ottenere pace anche nel nostro rapportarci ad altri, al nostro marito, alla nostra moglie, ai nostri figli, ai fratelli, alle sorelle, ai colleghi di lavoro, ai vicini di casa. Noi possiamo essere calamite di conflitti, calamite di guerre, calamite di contrasti e attriti e scintille, oppure possiamo essere portatori di pace a nostra volta. E Gesù dice: beati coloro che sono portatori di pace. Come puoi vivere questa pace con gli altri? applicando quello che Gesù ti chiede di applicare. Voglio leggervi alcuni versi, solo due versi ancora, che si trovano in Efesini capitolo 4, versetto 31 e 32. In questi versi c'è scritto: via da voi ogni amarezza, ogni cruccio e ira. Quanto è bella la parola di Dio, perché è Dio che ci parla. E Dio sta dicendo: io non voglio che i miei figli abbiano amarezza, io non voglio che i miei figli vivano nell'ira, io non voglio che i miei figli vivano nelle tensioni, negli attriti, nelle guerre, nei conflitti. Per questo dice: via da voi queste cose, via da voi il clamore e parola offensiva con ogni sorta di cattiveria, siate invece benevoli e misericordiosi gli uni verso gli altri, perdonandovi a vicenda come anche Dio vi ha perdonati in Cristo. Questi sono solo alcuni versi. Se poi volete farvi un carico di istruzioni e di insegnamenti da parte di Gesù per vivere pace nelle relazioni, allora vi invito a leggere il Sermone sul Monte. In quell'insegnamento Gesù dà tante chiavi per vivere pace nelle relazioni. Nel momento in cui noi otteniamo pace con Dio e siamo perdonati da Dio, abbiamo la capacità di perdonare gli altri. E quindi quello stato di pace che abbiamo ottenuto da Dio, dall'alto, ci permette di avere uno stato di pace anche nei confronti degli altri, dei nostri vicini, dei nostri parenti, dei nostri amici. Non è interessante che proprio a Natale, che dovrebbe essere la festa della pace, perché celebriamo il principe di pace, c'è un accumulo di conflitti, c'è un accumulo di litigi. E questo è perché nella nostra natura, nella nostra carnalità, siamo più portati a far valere la nostra giustizia che a far valere il perdono. Siamo più portati ad utilizzare la nostra bocca per accusare, per dire parole offensive e cattive, che usare la nostra bocca per benedire, parlare bene, anche dei nostri nemici, anche di coloro che vogliono il male per noi. Se vuoi attirare la pace di Dio nel tuo cuore, nella tua vita, nelle esperienze relazionali con altri, allora impara a mettere in pratica gli insegnamenti di Gesù Cristo. Dio è venuto per darci pace e noi stamattina vogliamo pregare affinché la pace sua sia completa nelle nostre vite. Amen. Vogliamo alzarci in piedi. Forse sei qui stamattina e dici: io non sono sicuro di essere riconciliato a Dio, io non sono sicuro di avere pace con Dio. Ci sono cose che ho fatto, ci sono peccati che ho commesso, che mi fanno pensare che Dio è ancora in conflitto con me, che io sono ancora in conflitto con Lui. Beh, per te c'è una preghiera specifica, ed è una preghiera di riconciliazione che voglio guidarti a fare stamattina. È una preghiera nella quale tu chiedi a Dio di perdonarti in Cristo Gesù e ottieni la piena giustificazione attraverso il sangue di Gesù, ed è disponibile per te perché Dio ama poter darti questa opportunità e questa conciliazione. Forse sei qui stamattina e dici: io sto passando un tempo terribile, un periodo, una stagione così buia, così piena di conflitti. E se devo pensare a quei versi che dicono: non angustiatevi di nulla, io non ce la faccio. Perché l'ansia, lo stress, la pressione di queste circostanze è troppo forte. Io sono preoccupato, io sono agitato, le circostanze attorno a me non mi fanno dormire la notte, non mi fanno stare in pace. C'è una preghiera anche per te, ed è una preghiera nella quale tu scegli di camminare con Cristo e di condividere il peso che hai con Lui in un giogo nel quale l'aratro non viene più portato solo da te, nella tua forza, perché la tua forza non basta, ma tu coinvolgi Cristo. Io voglio guidarti a questo tipo di preghiera. Forse sei questa mattina e riconosci che attiri più conflitti che che situazioni di pace e di riconciliazione attorno a te. Vivi tanti conflitti, se pensi in famiglia, se pensi nei rapporti al lavoro, se pensi fra i tuoi amici. Ti ritrovi ad avere poche persone delle quali ti puoi fidare perché tutte le altre sono in un rapporto conflittuale con te. E hai difficoltà stamattina a perdonare quella persona, e tu sai chi è quella persona, tu conosci quel nome. Ed è Gesù che ti dice stamattina: io sono venuto per essere il principe della tua pace. E tu puoi perdonare quella persona e puoi lasciare andare quel conflitto per ottenere una pace che porterà benedizione a te in primo luogo e poi tutto attorno a te nei rapporti e nelle relazioni che hai. E anche per te c'è una preghiera specifica da fare stamattina, ed è pregare affinché tu possa avere la forza attraverso lo Spirito Santo di mettere in pratica quello che già conosci dalla parola, o conoscere meglio quello che la parola di Dio dice sui rapporti e sulle relazioni per poi metterlo in pratica nella tua vita. Sapete, quando Gesù ci istruisce lo fa per il nostro meglio e non ci lascia soli. E se tu non riesci a perdonare, Lui ti darà la forza di perdonare. E se tu non riesci a porgere l'altra guancia, Lui ti darà la forza di porgere l'altra guancia. E se non riesci ad utilizzare in una maniera ben guidata e ben specifica la tua bocca, Lui ti vuole dare la capacità di utilizzarla bene per non creare conflitti attorno a te, ma relazioni di pace. Vogliamo pregare? Chiudiamo i nostri occhi, concentriamoci su Cristo Gesù che è qui in mezzo a noi stamattina, e sono convinto che ti ha parlato. E io voglio pregare prima di tutto per quest'ultima categoria di persone. E se sai che ci sono conflitti irrisolti nella tua vita, io voglio chiederti di alzare le tue mani, che sia per causa tua o per causa di altri. Tu vuoi vivere pace con quelle persone, nelle relazioni, in famiglia, e noi vogliamo pregare insieme affinché questo possa accadere a partire da stamattina. Alza le tue mani ora e preghiamo. Padre, io prego per questi miei fratelli, per queste mie sorelle, affinché la tua pace nelle relazioni possa avere la meglio. Io prego affinché tu possa dare autorità, forza, potenza nello Spirito Santo a loro di mettere in pratica la tua parola e attirare pace attorno a sé e non conflitti. Io prego che tu possa dare loro la forza di perdonare, nel nome di Cristo Gesù, la forza di amare, nel nome di Cristo Gesù, la forza di porgere l'altra guancia, nel nome di Cristo Gesù, la forza di non accettare la vendetta, di non accettare il rancore, quale posizione da vivere, ma piuttosto vivere la posizione di grazia, di amore nei confronti di queste persone. Io li benedico nel tuo nome e prego la tua libertà in loro, nel nome di Cristo Gesù. Amen. Voglio pregare per chi questa mattina si ritrova a vivere in uno stato d'animo conflittuale e ha il coraggio di ammettere di non avere pace nel proprio cuore per le situazioni e le circostanze che sta attraversando. Chiedo a te ora di alzare la tua mano, mentre tutti manteniamo ancora gli occhi chiusi e manteniamo anche un'attitudine di preghiera. Se tu questa mattina sei venuto in questo luogo e sai che ci sono delle situazioni difficili che stai attraversando e che non ti mettono pace, io voglio pregare per te. Alleluia Gesù, io ti ringrazio. Ti ringrazio perché tu sei il Dio che mette pace nella tempesta. Gesù, io ti ringrazio perché tu sei stato colui che si è alzato su quella barca e ha sgridato il vento, ha sgridato le onde e ha permesso che nella tempesta ci fosse gran bonaccia. Io prego, Padre, affinché tu possa calmare il vento, calmare la tempesta, calmare le circostanze dei miei fratelli, delle mie sorelle che qui sono in sincerità davanti a te con le mani alzate. Io prego di intervenire e cambiare queste circostanze. Metti pace nei loro cuori, io ti chiedo nel nome di Gesù, e dai a loro la forza di affidarsi a te. Io prego che in questo momento il loro giogo possa essere condiviso con te e che loro possano portare avanti il carico della vita non più da soli, ma con te. Gesù, la tua pace, la tua pace, la tua pace, la tua pace in questa stagione, la tua pace in queste circostanze. E se si tratta di malattia, Padre, noi nel nome di Cristo Gesù confessiamo la tua guarigione e la tua forza di durare questa prova. E se si tratta di situazioni, di tensioni interiori, anche che non si riescono a spiegare, di un'ansia che non si sa da dove viene, Padre, noi preghiamo la tua pace, che vada via l'ansia, che vada via l'ansia nel nome di Cristo Gesù, che vada via questo conflitto interiore, e che tu possa mettere la tua pace nel cuore dei miei fratelli, delle mie sorelle, nel nome di Cristo Gesù. Una chiesa che ha fede dice amen. Manteniamo ancora gli occhi chiusi. Continuiamo a pregare. Io voglio guidare chiunque questa mattina riconosce di non avere pace con Dio e vuole scegliere stamattina di dare spazio a Gesù di entrare nella propria vita, guidare la propria vita, essere padrone della propria vita. Chiunque questa mattina vuole dire io voglio il perdono dei miei peccati e voglio ottenere quella pace con Dio che riconosco posso ottenere attraverso il sangue di Gesù. Se questa mattina tu hai bisogno di questo tipo di preghiera, allora ti chiedo ora di alzare la tua mano dovunque ti trovi, perché Gesù ti ha portato in questo luogo per questa ragione e ti ha portato qui per riconciliarti al Padre, per darti la possibilità di avere un rapporto e una relazione col tuo Creatore. Alza ora la tua mano, c'è qualcuno? Alleluia, grazie Gesù. Se c'è ancora qualcuno, alza la tua mano dovunque ti trovi. E voglio guidarti in preghiera in questo momento affinché tu possa avere pace con Gesù. Alleluia. Grazie per queste mani. Grazie. Grazie. Puoi abbassare ora la tua mano. Io chiedo se c'è qualcun altro. Manteniamo gli occhi chiusi e preghiamo, Chiesa. Io credo che c'è ancora qualcuno che questa mattina ha da fare questa scelta. Lo so, richiede coraggio. Richiede ammettere che sei un peccatore. Richiede ammettere che sei separato da Dio e che non stai camminando con Lui. Ma è la confessione, è la cosa che puoi ammettere migliore che tu possa fare nella tua vita, ammettere che hai bisogno di Dio stamattina. C'è qualcuno che dice, io sì, ho bisogno di pace con Dio e voglio camminare con Lui. C'è ancora qualcuno, alza la tua mano ora. Lo fai davanti a Dio, io voglio vedere queste mani per poter pregare per te. Ma è davanti a Dio che fai questa scelta, c'è ancora qualcuno. Alleluia, grazie. Grazie, vedo ancora qualche mano che si alza. Si è alzato la tua mano, posso chiederti di ripetere con me questa preghiera? E lo vogliamo fare insieme, Chiesa, unendoci a queste persone, sapendo che questa è la preghiera più importante della loro vita, che li porta a riconciliarsi con il Padre. Quindi chiedo a tutti noi di pregare questa preghiera intensamente in una maniera sentita a favore di queste persone, perché Gesù sta salvando in questo luogo, perché Gesù sta continuando a portare pace su questa terra, una persona per volta. Preghiamo insieme, ripetete con me. Signore Gesù, ti chiedo perdono per tutti i miei peccati. Ti chiedo di lavare le mie colpe e di purificare la mia vita. Io voglio pace con il Padre. Non voglio camminare da solo. Voglio camminare con il mio Creatore. Voglio avere forza dall'alto. Voglio vivere nella luce, non più nelle tenebre. Quindi ti invito, Gesù, a mettere pace nel mio cuore e a riconciliarmi con il Padre. Io decido stamattina di tornare a casa e chiedo a te, Padre, di accogliermi. Ho bisogno di te. Salvami in questo momento, in virtù del sacrificio di Cristo Gesù. Amen. Amen, alleluia. Grazie Gesù. Noi ti lodiamo questa mattina. Noi ti ringraziamo perché sei vivo. Noi ti rendiamo ogni gloria ed ogni onore, perché quello che tu hai cominciato a fare 2000 anni fa lo continui a fare ancora oggi. Siamo la tua chiesa, siamo la tua famiglia e ti riconosciamo quale capo, quale signore, e ti siamo grati per la salvezza che c'è in te. Noi preghiamo, Padre, che in questi giorni possiamo essere luce in un mondo di tenebre. Possiamo portare la speranza della tua pace in ogni luogo, in ogni contesto. Insieme ti preghiamo affinché ci possa essere luce a Modugno, luce in questa provincia, luce in questa regione, nel nome di Gesù. Padre, noi preghiamo che non possano essere le tradizioni ad avere la meglio, ma il vero messaggio di Cristo che porta salvezza e a liberazione coloro che sono lontani. Padre, vuoi tu salvare, guarire e liberare attorno a noi. Te ne preghiamo nel nome tuo potente. Alleluia, vogliamo adorare il Signore Gesù con tutta la forza che c'è nel nostro cuore. Lui merita la lode.